Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che nella seconda ora del programma parleremo anche di come eventualmente possano mutare le politiche economiche di questo paese e anche a livello europeo dopo il risultato elettorale che stiamo ancora commentando per quello che chiaramente riguarda la parte amministrativa italiana, più definitivo invece il dato sulle europee. In generale, in una giornata in cui al di là del tema politico c'è un tema di borsa che si sta facendo abbastanza insistente, nel senso che gli indici perdono intorno al punto percentuale, ma vanno particolarmente male in Europa alcuni grossi gruppi bancari che sono tornati ad avere perdite vicino al 10%. Non sono gruppi bancari italiani, nel senso che le banche in Italia oggi sono messe deboli, ma non in maniera preoccupante. Intesa perde il 2,8%, Monte dei Paschi il 2,7%, Unipol il 2,2%, Ubibanca meno 1,90%. L'indice complessivamente perde 1,5% percentuale, un po' peggio di quanto non stia facendo Parigi, meno 1,2%, Londra meno 0,40% e Francoforte meno 1,2%. Anch'essa l'America perde l'1%. Sul Dow Jones. L'euro sul dollaro ha ritracciato, si è sceso anche sotto quota 1,40, siamo a 1,38,6 nei confronti del biglietto verde. Tra i titoli che perdono di più, le CIR perdono il 4,5, Finmeccanica il 3,80, Enel perde il 3,7, Buzzi, Unicem e Mediolanum perdono il 3,5, Pirelli perde il 3,3 come Saipem e Parmalat, Fondiaria meno 3,2, Impregilo meno 3. Geox meno 2,90 come Prismian, il 2,80 lo perde appunto il Monte dei Paschi, ma anche Bulgari. Il tema di apertura, come annunciato, sarà, come annunciato nelle scorse settimane, riguarderà i consumi. A questo punto, in attesa di vedere se, o meglio quando, ripartirà l'export, perché le previsioni purtroppo hanno fatto slittare la ripresa, seppur modesta, dell'economia a fine 2009, inizio 2010, probabilmente metà del 2010. Il dato su cui molti paesi si confrontano, in particolar modo l'Italia e la Francia, è un dato di consumi tutto sommato stabili. Certo, c'è un segno meno, ma nulla a che vedere con il crollo invece delle esportazioni. Consumi tutto sommato stabili, ma dentro questo dato complessivo sta succedendo un po' di tutto, ossia la crisi è stata usata anche come scusa delle volte, non solo come motivo vero, per ridefinire come si fa la spesa, che preferenze e che valori attribuiamo alle scelte nei consumi. Certo che la prima variabile è quella economica, del portafoglio, di quanto ti resta in tasca a fine mese, ma non è solo un elemento che si direbbe congiunturale, c'è anche qualcosa di più, c'è una modifica proprio culturale nell'atteggiamento verso i consumi. Oggi lo tratteremo a livello, diciamo, di fotografia e di quello che osservano gli analisti. Domani ne parleremo domani o nei prossimi giorni comunque ne parleremo con chi gestisce invece i grandi gruppi della distribuzione italiana. 349-238-6666 per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve. L'euro è indebolito, ma il petrolio resta sempre alto, a $67 al barile. Devo dire però che oggi, oltre ai titoli bancari, dove abbiamo avuto banche come Royal Bank of Scotland meno 5%, Lloyds meno 9% e Société Générale in Francia meno 4,8%, oggi, dicevo, frenano anche molti operatori, molti titoli legati alle materie prime. Per esempio Anglo American meno 5,80, Vedanta meno 5,3, BHP Billiton meno 3,7%, e in difficoltà anche le compagnie aeree. Air France è tornata a perdere in maniera pesante, quasi 4%, Lufthansa meno 1,6%. Le compagnie aeree perdono anche per le stime diffuse oggi dalla IATA, che è l'ente che raggruppa le principali, la maggior parte delle compagnie aeree al mondo. Andrà il 2009 due volte peggio rispetto alle previsioni per il settore aereo l'anno in corso. Il calo dei ricavi infatti sarà senza precedenti, dice la IATA, meno 15%, ossia mancheranno all'appello nei ricavi delle compagnie aeree mondiali qualcosa come 80 miliardi di dollari. La crisi dura, e dice il presidente della IATA, direttore generale della IATA, Giovanni Bisignani, lo scenario è peggiore dell'11 settembre, è duro e inclemente e continua a perdurare. Tra l'altro lo stesso Bisignani oggi, parlando da Kuala Lumpur, ha detto: i segnali di ripresa che la IATA aveva colto nei primi mesi del 2009 sono svaniti. È un tema su cui torneremo, quello delle compagnie aeree, perché chiaramente è un altro indicatore indiretto di come questa crisi, come si stia uscendo da questa crisi e quanto tempo ci vorrà. Nel frattempo l'Irlanda, il paese assieme alla Spagna più in bolla, la Spagna in bolla immobiliare, l'Irlanda in bolla anche di altro genere, bolla anche bancaria, ha avuto un nuovo declassamento nel suo voto da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Declassato il voto sul debito irlandese, scende da doppia più a doppia A e con prospettive negative per il futuro. Però c'è una buona notizia: l'OCSE oggi, diffondendo il superindice, ha mostrato, ha registrato un attenuarsi del ritmo con cui l'economia si sta deteriorando, e questo è, diciamo, l'ennesimo elemento che ci porta a dire che perlomeno la frenata del calo continuo c'è stata. Il superindice dell'OCSE è aumentato di uno 0,5 quanto punti, ma soprattutto il paese che ha vantato il più forte aumento del superindice è, all'interno del G7, è l'Italia, 2 punti in più. Nel frattempo prosegue anche la nostra osservazione di quello che sono i settori industriali. Federchimica oggi, nel corso dell'assemblea, ha registrato il mondo della chimica italiana un calo tra il 10 e il 15% della produzione, in linea con tutto il settore in Europa, come ha ricordato Giorgio Squinzi nel suo intervento questa mattina all'Asso Lombarda a Milano. E all'interno di questo intervento dell'assemblea c'è stato anche l'intervento della presidente Confindustria Marcegaglia, che ha commentato chiaramente anche il dato elettorale. Lo ha fatto al microfono della nostra Valeria De Rosa. Noi abbiamo fatto pochissime liberalizzazioni, abbiamo fatto le privatizzazioni per fare cassa o per dare pezzi di industria a amici, ma non abbiamo liberalizzato. C'è ancora moltissimo da fare. Una liberalizzazione noi come Confindustria l'abbiamo portata avanti sul settore dell'energia, riformando la borsa elettrica, però c'è ancora moltissimo da fare. C'è da fare energia, nel gas, c'è da fare molto sui servizi pubblici locali, che io condivido, sono diventati veramente l'ambito in cui la politica entra pesantemente nell'economia, aumenta i costi, crea extra tariffe che poi vengono scaricate sulle imprese dei cittadini, ci fa concorrenza sleali e non permette a questi settori, che sono settori che hanno una ampia potenzialità di crescita, di poter crescere. Quindi il tema delle liberalizzazioni è un tema importantissimo, e va detto che questo governo su alcuni punti ha fatto addirittura dei passi indietro. Questo non tanto il commento della Marcegaglia al risultato elettorale, quanto l'agenda, le priorità della politica nei prossimi mesi, chiusa la campagna elettorale. Avete sentito: liberalizzazioni, riforme, passi indietro fatti nelle liberalizzazioni. Devo dire, su molti giornali in questo fine settimana veniva presentato anche appunto il passo del gambero su molte liberalizzazioni, il decreto Bersani smontato pezzo per pezzo dai farmacisti, dagli avvocati, dalle categorie che non l'hanno mai amato quel decreto. tanto poi il conto lo pagano i cittadini. Andiamo avanti e parliamo di consumi. Sappiamo tutti che in questa situazione economica i consumi sono, hanno segnato il passo e sono in difficoltà, però va anche detto, per essere corretti, che il calo nei consumi non è stato così preoccupante come quello che abbiamo visto nella produzione industriale, negli ordinativi e soprattutto nell'export. Certo, nel 2008 hanno fatto meno 0,9%, però ne hanno pagato le conseguenze soprattutto i beni durevoli, quelli insomma, dal computer, alla lavastoviglie, il frigorifero, la lavatrice, meno 7%. I beni non durevoli, quelli appunto che vanno poi ricomprati rapidamente, hanno perso solo l'1% e i consumi alimentari l'anno scorso hanno fatto un meno 2,3%. Certo, poi resta un dato a marzo in cui complessivamente le vendite al dettaglio hanno fatto un meno 5%, il dato peggiore dal 1997, per cui la crisi c'è, lo dico chi scrive al 349-238-6666, nessuno sta dicendo che si vada al supermercato o dall'alimentari così, con lo stesso cuore, con lo stesso portafoglio di un anno o due anni fa, ma non c'è solo questo. A marzo abbiamo visto calare del 5% i generi non alimentari, ma anche i generi alimentari, abbigliamento meno 6, calzature meno 6, elettrodomestici meno 4, prodotti per la persona meno 5%. E inizia con oggi un viaggio di questo programma di Focus Economia dentro il mondo dei consumi. Ripeto, sia nella gestione quotidiana, mensile, con una crisi che morde l'occupazione nelle imprese, soprattutto del centro-nord, che fa abbassare i fatturati, che vede i fornitori pagare in ritardo o cercare di non pagare, con un bel po', e le banche chiudere o irrigidire i rubinetti del credito. Ma sarebbe a questo punto anche interessante capire come ne usciremo tra 6 mesi, ce lo auguriamo, tra 9 mesi, tra un anno, che tipo di consumatore uscirà da questa crisi, perché gli effetti, come sempre avviene, non saranno solo contingenti, appunto congiunturali. E allora ne parliamo oggi con l'amministratore delegato di Nielsen Italia. La Nielsen è il leader mondiale nelle ricerche, nelle informazioni e nell'analisi di mercato. Dottor Stefano Galli, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Gianpaolo Fabris, ordinario di sociologia dei consumi all'Università San Raffaele di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Domani o dopodomani, se vediamo, la nostra scaletta è sempre suscettibile di modifiche perché ci occupiamo anche di cronaca, parleremo con i leader della grande distribuzione, cioè i manager che poi devono gestire le modifiche dei consumi. Ma inizierei con la fotografia del presente. Allora, dottor Galli, voi fate ricerche periodicamente, che cosa avete notato nelle modifiche dell'atteggiamento dei consumi, delle scelte di consumo negli ultimi mesi, diciamo da un anno a questa parte? Beh, innanzitutto la spesa degli italiani sta cambiando non da settembre 2008, ma sta già cambiando da alcuni anni, quindi la ricerca del risparmio è partita direi nel 2004, quindi un percorso lungo, è un percorso che ha portato i consumatori a essere molto più attenti, a essere molto più attenti alle promozioni, ai prezzi e ai canali più concorrenziali. La crisi ha acuito e ha cambiato certi, diciamo, ha creato nuovi paradigmi di consumo. Ad esempio siamo tornati a fare la lista della spesa, quasi il 60% è tornato a fare la lista della spesa per evitare di spendere di più a causa degli acquisti d'impulso, tende a fare scorta di prodotti quando può, quindi acquista magari le proprie marche o le marche preferite in promozione e si stocca, piuttosto che c'è un numero sempre più alto di italiani, ad oggi circa un terzo, che ha recuperato la dimensione domestica, quindi tende a preparare più frequentemente il pane, i biscotti, le torte, la pasta fatta in casa. Infatti su alcune categorie notiamo, nonostante la situazione odierna, una crescita a due digit. Vi parlo ad esempio della farina, vi parlo delle uova, a due cifre. Uh-huh. Vi parlo delle paste semilavorate appunto per la preparazione dei prodotti in casa. È chiaro che poi si cerca di guardare agli sprechi, quindi acquistando magari confezioni piccole o prodotti a peso imposto come salumi e formaggi, quindi riducendo la grammatura, piuttosto a dare uno sguardo sia al risparmio e anche all'ecologia nell'acquistare confezioni famiglia più corpose. Allora, vedo già che alcuni ascoltatori sono entrati nel doppio tema della puntata e delle puntate che faremo. In realtà molti non spendono, dire che c'è crisi solo perché non si spende tutto quello che si guadagna è un controsenso. Ragioneremo sui modelli culturali anche nell'acquisto. Restiamo però intanto sulla fotografia del presente. Lei diceva che dal 2004 c'è un consumatore, dottor Galli, più attento ai risparmi. Citavano insieme di casi empirici, appunto l'aumento di certe paste e prodotti che servono per poi cucinare in casa, l'aumento di prodotti che vengono fatti artigianalmente in casa. Aggiungo anch'io che per la prima volta da 15 anni si sono ridotti i consumi fuori casa, cioè ristoranti e quant'altro, e poi ci sono anche delle note un po' di colore. Per esempio è raddoppiata la vendita di candeline per i compleanni. Ora, siccome immagino che non siano raddoppiati i compleanni, e questo vuol dire che si festeggiano più compleanni in casa, dottor Galli. Ci sono anche dei consumi che probabilmente resteranno, degli atteggiamenti che resteranno limitati a questa crisi. Penso a quelli che voi chiamate i consumi consolatori. Cosa sono? Ma i consumi consolatori sono, per assurdo, alcuni consumi di prodotti ad alto prezzo. Penso alla cioccolata, penso al vino, che sono in aumento, quindi abbiamo questa polarizzazione, si tende a mettere nel carrello prodotti a basso prezzo, prodotti in promozione, prodotti a marca privata, ma anche prodotti di fascia alta, e questo è un comportamento che, come dire, crossa tutte le fasce di reddito, quindi anche fasce di reddito più basse, insomma, cercano questi consumi consolatori. Per cui in un periodo in cui le notizie buone le troviamo col lumicino, uno a un certo momento non è che può così alla Tafazzi continuare a tirare cragnette contro un muro, si compra la Nutella, si compra anche tra l'altro a Londra è cresciuta tutta la vendita di lingerie sexy, perché insomma all'interno delle pratiche in casa evidentemente tutti i manager... È un altro aspetto del recupero della dimensione domestica, insomma. Il recupero della dimensione domestica, ecco, sulla lingerie sexy non è male. Vabbè, andiamo avanti invece. Prego. Seriamente, questi consumi consolatori sono legati semplicemente al periodo di crisi, cioè quando l'economia tornerà a ripartire, a quel punto certi consumi, se ho ben capito, dottor Galli, non ci dovrebbero o dovrebbero scemare. Quali sono i consumi, per così poi passo anche alle tesi e alla fotografia di Giampaolo Fabris, i consumi che invece ormai da tempo denotano una modifica, da quello che voi vedete come Nielsen? Ma in generale vediamo delle azioni di risparmio che, ripeto, sono partite da qualche anno su quello che non è la spesa di tutti i giorni, quindi penso all'abbigliamento, penso a quello a cui cenava lei, dei beni durevoli, penso a tutto il consumo fuori casa. C'è anche un tentativo, magari non facilitato dalla carenza di concorrenza e di trasparenza, di risparmio sulle bollette, sul gas, sull'elettricità, sui mutui. E c'è un posticipare alcune spese importanti, penso ad esempio alla ristrutturazione della casa piuttosto che all'upgrading, quindi al miglioramento della propria tecnologia. Ultimo aspetto è una maggiore attenzione diciamo all'area delle vacanze, quindi tendiamo a utilizzare pacchetti low cost sempre di più, diminuendo il numero di giorni di vacanza e cercando di risparmiare anche su quello. Allora, siccome non tutto sta calando in maniera uguale, ossia i consumi sono soprattutto ridefiniti, non è che lei citava il caso dei vini di pregio o della cioccolata, ci sono alcune cose in cui uno dice vabbè, io uno sfizio me lo tolgo, anche a maggior ragione se poi la situazione esterna non è delle più esaltanti. Quali sono i settori che hanno più difficoltà? I beni durevoli l'abbiamo capito, tra l'altro è anche un po' una beffa per loro, perché se c'è un settore in cui i prezzi in questi anni sono calati, non sono nemmeno aumentati poco, ma calati, è tutta l'elettronica da consumo, il bianco, così. Però insomma, loro soffrono del fatto che sono spese importanti e uno rinuncia prima alla lavastoviglie, prima che rinunciare alla Nutella o al ristorante. Quali sono gli altri settori in forte difficoltà? Abbiamo visto la moda avere dei seri problemi. Noi monitoriamo settimanalmente quello che è il diciamo, la spesa che le famiglie italiane fanno nei punti vendita. Parliamo di circa 9.000 punti vendita che settimanalmente ci passano il loro venduto. Più che un problema di volumi, si tratta di un problema di mix di prodotto, quindi si tende a inserire prodotti a basso prezzo. In particolare notiamo un calo del mercato di prodotti per la cura per la casa, un calo del fatturato della cura della persona, e anche alcuni prodotti del mondo dei surgelati. Probabilmente questo è frutto, ripeto, di un mix diverso. Per darle un numero, i prodotti a marca private, quindi i prodotti delle insegne della distribuzione, sono arrivati in Italia al 14% e hanno assorbito praticamente più dell'80% della crescita degli ultimi 12 mesi. Teniamo presente che in Italia la quota è ancora molto bassa. In UK, ad esempio, Regno Unito, parliamo di un 25%, in Francia siamo oltre 25%. Cioè quei prodotti che hanno il marchio del supermercato, esatto. E che costano tendenzialmente meno. Anche qua in Italia abbiamo la nostra particolarità, nel senso che ci sono sicuramente prodotti che costano meno, si posizionano tra il 15 e il 20% rispetto ai marchi, ai marchi leader, però ci sono insegne che hanno lanciato, non so, i prodotti nell'alimentare, i prodotti delle linee biologiche, le specialità regionali, che devo dire stanno riscontrando un buon favore. In generale quello che succede è che nel fare l'acquisto di tutti i giorni si guarda al price for value, quindi il rapporto proprio cosa mi porta a casa per un determinato prezzo. Allora, chiudiamo questa parte perché poi vorrei capire un'altra cosa con Gianpaolo Fabris, dicendo i settori. Beni durevoli abbiamo visto che sono in difficoltà. Nel settore alimentare, lei mi diceva, da un lato molta attenzione al rapporto prezzo-qualità, alle scelte di consumo, però anche con qualche sfizio, e lì non deve sorprendere che lo champagne piuttosto che la cioccolata di pregio tengano bene. Ancora la moda, mi conferma, dottor Galli, che invece è un settore in difficoltà estrema? Sì. La voce su cui le famiglie italiane tendono a risparmiare di più. Il 72% ci ha detto sto spendendo meno per abiti nuovi, sostanzialmente. E i servizi, telefonie e quant'altro? Siamo a un 46%. Di persone che tendono, che ci hanno detto tendo a risparmiare su bollette tipo gas, elettricità. Questo è un numero abbastanza basso rispetto ad esempio agli Stati Uniti, dove arriviamo quasi all'80%. Per cui una giacca, una gonna in meno, ma non una telefonata? Possiamo fare una sintesi? Sì, diciamo che poi ci sono settori che a causa della bagarre concorrenziale stanno agevolando il portfolio degli italiani. Allora, professor Fabris, questa è la fotografia del presente, cioè come la crisi o le difficoltà dei fatturati, degli ordinativi, le incertezze soprattutto anche su quando si uscirà da queste difficoltà dell'economia, da questa recessione economica, hanno portato a cambiare, a modificare, a ridurre, anche perché se uno poi guadagna di meno riduce per forza i consumi. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare tra poco anche della borsa, che ha chiuso quasi sui minimi, meno 1,4%, pesante oggi alcuni bancari europei più che italiani, ma per capire con Gianpaolo Fabris, dopo aver ascoltato dalla Nielsen come sono cambiati i consumi, quale modifica culturale resterà e quindi permanente a crisi passata, a recessione ormai alle spalle. Sì, professor Fabris, ogni tanto lo usiamo Rino Gaetano in questa canzone dello shock petrolifero, quando si diceva, insomma, sono disposto a fare qualunque cosa pur di un litro di benzina. Che tipo di consumatore italiano uscirà da questa crisi? Lasciamo stare i consumi e appunto, come ricordava la Nielsen, i consumi consolatori, quando tutto fuori va male, ti compri una barra di cioccolata, una bottiglia di champagne, un abbigliamento sexy. Ma al di là di questo, è possibile immaginare una modifica non temporanea ma strutturale? Ma io sì, io credo di sì. Basta dare attenzione, a mio modo di vedere, a quelli che sono, per esempio, comportamenti di consumo che stanno andando in controtendenza, oppure cercare di capire un po' qual è la struttura latente di una serie di prodotti di cui abbiamo visto invece una contrazione in questi anni. Ad esempio, lei notava come diminuisca l'acquisto di prodotti, di beni di consumo durevoli, nonostante che questi abbiano abbassato i prezzi. Ecco, certamente tutti i prodotti di sostituzione in cui c'è una notevole discrezionalità nel decidere se cambiare o non cambiare, hanno avuto un rallentamento, si è posticipato l'acquisto. Tra l'altro, fra i consumi cosiddetti consolatori, oltre alla lingerie, mi è piaciuto molto questa esemplificazione, io direi tutto il settore dei prodotti da make-up, da trucco. Si spende meno per acquistare gli abiti e anche questo ha un significato. Ormai noi non abbiamo più bisogno, francamente, di un paio di calzoni in più, di una gonna in più o di una maglietta in più. Anche qui abbiamo spesso i nostri guardaroba, non dico ingolfati, ma molto pieni di indumenti. Li cambiavamo perché i diktat della moda erano così pressanti che uno si sentiva a disagio, magari con un vecchio capo. Adesso i diktat della moda sono molto meno pressanti, ho rallentato questo tipo di acquisti e francamente senza provare un particolare disagio. Io, anzi, se mi consente, vorrei sottolineare appunto la parte mezzo piena del bicchiere, cioè le conseguenze virtuose della crisi. Sì. Per esempio, abbiamo detto diminuzione, mi sembra, 2,3% della spesa alimentare. Però non si dice che in larga misura questa è dovuta al fatto della pressoché totale eliminazione dello spreco nelle famiglie italiane, che pesava circa, è difficile avere una percentuale esatta, ma tra il 18 e il 22% degli acquisti totali. Quella forse che è la più preoccupante da un punto di vista etico-sociale forma di spreco. Questa tendenzialmente si è annullata e si hanno invece comparti alimentari che sono andati in controtendenza. Ad esempio, il biologico è aumentato dell'8% circa, sia per quanto riguarda l'alimentare che per quanto riguarda il tessile. Il biologico mediamente costa circa un 15% in più rispetto al prodotto alimentare di tipo tradizionale, però il consumatore che lo acquista vuole avere delle certezze di salubrità del prodotto, di una migliore gratificazione orale, una maggiore naturalità, un rapporto non predatorio con la terra e via dicendo. Ci sono settori come ad esempio gli acquisti dei prodotti per la persona, ma per la salute della persona, in un senso lato, che vanno non tanto i prodotti etici o i prodotti da banco, ma gli integratori, la frequentazione delle palestre, attività sportive, che in questo periodo non ha fatto registrare una flessione, ma ha fatto registrare invece un incremento. Così una serie di consumi legati al tempo libero, ad esempio la vacanza. È vero che è cambiata la tipologia, si va in agriturismo, le vacanze sono più brevi, però non c'è nessuna indicazione che sta a indicare che stia scendendo nell'ambito delle priorità di allocazione del reddito questo tipo di spese. Vale anche per i ristoranti, visto che molti ascoltatori adesso, ma anche nelle scorse settimane, ci hanno chiesto: ma voi parlate di difficoltà e crisi nei consumi, poi uno sotto i ponti si muove e trova i ristoranti sempre pieni. No, io credo che questo sia più una percezione. Sì. I ristoranti, certamente anche questa è un'attività socializzante di tempo libero, ma i ristoranti globalmente hanno fatto registrare una flessione e non è un caso che molti di questi stiano introducendo dei menù a prezzi ribassati. Non è un caso, ad esempio, che McDonald's, che certamente non è un modello nutrizionalmente corretto, abbia aumentato che però si caratterizza per il prezzo basso, sì, abbia aumentato invece del 5%, 5-6% le sue vendite. Per quello che riguarda il gioco d'azzardo, invece, visto che il boom di Lottomatica abbiamo visto, insomma, quello può rientrare invece in consumi consolatori più da tempo di crisi? A mio modo di vedere assolutamente sì, è l'aspetto a mio modo di vedere più preoccupante, perché questa veramente... Preoccupante se non vinci? Ma sì, ma siccome non si vince mai, si sa che chi ci guadagna in queste cose è lo Stato, chi gestisce queste cose qua è più preoccupante. Invece mangiare una scatola di Nutella, a mio modo di vedere, fa bene allo spirito e certamente non fa male alla salute. Ecco, io quello che a me sembra di constatare in questa crisi come effetto positivo, che l'italiano ha sviluppato quelle che sono un po' delle caratteristiche antropologiche del paese, quest'arte di arrangiarsi, di spinto da una necessità di un reddito non sufficiente, di andare a cercare prodotti a prezzi più bassi che vanno, non so, dalla frequentazione di tutti i punti vendita caratterizzati dal prezzo più basso, il discount, gli outlet, Zara, H&M. Ecco. Sì, Zara e H&M sono un po', a mio modo di vedere, delle eccezioni, perché questo non è il prezzo basso che li caratterizza, è uno straordinario rapporto, come diceva il collega della Nielsen, tra la qualità percepita ed il prezzo. No, spesso nei punti vendita a cui facevo riferimento era proprio il prezzo più basso in assoluto, e anche lì il consumatore si è accorto che può trovare dei veri e propri tesori. Come ad esempio le private labels non necessariamente hanno una qualità inferiore rispetto ai prodotti di marca più di tipo tradizionale. Ecco, professor Fabris, questa scoperta, perché un conto è dover andare al supermercato, come raccontava prima il dottor Galli della Nielsen, con la lista della spesa perché hai meno soldi o hai più preoccupazioni sul futuro e quindi stai più attento, e questo, diciamo, è un comportamento contingente, congiunturale, che poi se l'economia tornasse a ripartire bene uno potrebbe anche dimenticarsi la lista della spesa. Lei però ci sta descrivendo un cambiamento dei tratti culturali nel modo in cui il consumatore definisce le sue scelte. Vorrei capire, dopo, tra un anno, quando secondo ogni previsione dovremmo essere ampiamente fuori da questa frenata dell'economia, alcuni di questi atteggiamenti resteranno? Voglio dire, se io ho scoperto che spendendo a Natale abbiamo speso il 15% in meno in regali, nessuno si è lamentato, cioè non vi sono state crisi familiari, rotture dei legami di parentela perché i regali erano diversi. Allora, se io scopro che diciamo, con la lingerie, con un po' di palestra, magari non unendo le due cose assieme, cioè, ma la mia vita privata, sociale, continua come prima, meglio di prima non lo so, ma come prima, può essere che poi non torni più indietro? Cioè, e queste sarebbero brutte notizie per alcuni settori, penso alla moda, ma non solo. No, a mio modo di vedere non sono brutte notizie se colgono in tempo i segnali. Una cosa che dobbiamo dimenticarci è che all'uscita del tunnel troveremo un consumatore identico a quello a cui eravamo entrati. Non solo perché è diventato più selettivo, più esigente, più competente, più difficile da soddisfare, più nomade, ma anche perché si sta rendendo conto che probabilmente pur disinvestendo in certe tipologie di acquisti, la sua qualità della vita non diminuisce. Non è tanto il riemergere della cultura dei bisogni pochi e semplici, no? Perché questo è fuori dalla storia, ma certamente un consumismo compulsivo come quello che ha caratterizzato, rovinando poi anche la qualità della vita di tante persone, io credo che sia ormai al tramonto. E non è un auspicio di tipo moralistico, pauperistico, è una constatazione. Lei citava l'aspetto del Natale, è vero, durante il Natale, da una ricerca che abbiamo svolto subito poco dopo, abbiamo visto che le persone non avevano percepito in termini di disagio questa diminuzione degli acquisti, ma anzi ricoprivano la dimensione più familiare, religiosa del Natale, quindi erano convinti invece di aver passato meglio il periodo natalizio. E devo questo credo. Prego. La prego. Che questo credo che possa essere l'aspetto veramente all'insegna della discontinuità, che si possa anche vivere meglio con dei consumi minori, ma meglio dei consumi di tipo diverso. Non dimentichiamo che in questi anni non c'è stata soltanto la crisi, ma c'è il drammatico emergere dei problemi ecologici, del riscaldamento del pianeta. Non si è mai sottolineato abbastanza l'importanza di internet come strumento di socializzazione del consumatore, che per la prima volta ha fatto scomparire quella asimmetria informativa che ha sempre caratterizzato il rapporto tra consumatore e produttore. Allora, io resterei tutta l'ora a parlare, perché sono temi interessantissimi, a mio avviso, perché vanno oltre la semplice cronaca di questa crisi, di questa recessione. Devo dire che appunto che molti scrivono sui temi verdi legati all'ecologia, alcuni vogliono unire anche il risultato elettorale alle europee con la scelta dei prodotti biologici, mi sembra un po' un volo pindarico, ma i temi ecologici restano. Devo dire che se, come prevede lei, professor Fabris, da questa crisi usciremo con un consumismo meno compulsivo, almeno qualche beneficio questa crisi l'avrà riportata. E la descrizione del consumatore che lei ha fatto ricorda molto una pubblicità che c'è in queste settimane di una nota bevanda in cui c'è una bambina un po' insopportabile delle volte, però insomma, che ti spiega come lei ha riscoperto tutto un insieme di attività più familiari e che sta bene lo stesso. Ecco, forse pur concedendosi, come ricordava prima anche il dottor Galli, alcuni sfizi, alcuni lussi, ma diciamo, non più compulsivo, non più l'obbligo a consumare per consumare, e questa mi sembra comunque vada una buona notizia. Grazie quindi al ministro delegato di Nielsen Italia e al professor Giampaolo Fabris. Di nuovo in diretta, nessuno voleva offendere la bambina cioè, della nota pubblicità, no, dico chi scrive al 349-238-6666, l'ho definita insopportabile perché così ha un atteggiamento un po' spocchiosetto, ma il tema era un po' più serio di questo, e visto il numero di messaggi che sta arrivando, ripeto, ne parleremo anche domani o al massimo mercoledì con chi poi gestisce i grandi gruppi della distribuzione, per capire poi come, alla luce dello scenario che hanno individuato la Nielsen e Giampaolo Fabris, come poi si muovono le aziende nell'offerta. A mio avviso è importante per tutti quelli che hanno a che fare con il mondo cosiddetto del retail, cioè di noi consumatori, capire antropologicamente, culturalmente, che consumatore uscirà da questa esperienza, bambina o non bambina. La borsa invece, l'onore Michedi, Radio Cori Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che è successo alle banche in Europa, così cambiamo radicalmente tema? Abbiamo visto Royal Bank of Scotland e Lloyds avere perdite pesanti, un po' più contenute quelle italiane. Sì, guarda, oggi è andato male tutto il settore bancario. In Europa il sottoindice di settore Stoxx 600 è arretrato dell'1%, ci sono preoccupazioni anche in America, dove stanno andando male proprio le banche. In effetti tanti titoli hanno accelerato verso il basso proprio nel pomeriggio, fatta eccezione a Milano, come hai detto tu, invece proprio nelle ultime battute alcuni titoli si sono risollevati, ad esempio il Banco Popolare ha chiuso in rialzo dello 0,46%, BPM dello 0,33% e la stessa Unicredit ha guadagnato un frazionale 0,15%, merito anche di un report positivo di KBV. Certo, per cui l'Italia comunque non ha avuto i problemi che hanno avuto altre banche, perché tu citavi anche le banche francesi. Devo dire però che qualcuna ha sofferto, il Monte dei Paschi appunto meno 3%, Intesa meno 2,90%, Mediolanum meno 2,80%, Fondiaria, qui andiamo sull'assicurativo, meno 2,70%, Unipol meno 2,2%, Ubibanca meno 2% e poco altro, e le generali perdono 1,5%. Guadagna bene l'automatica più 6,80%, ne parlavamo diciamo così marginalmente anche nel corso del primo approfondimento, il Telecom Italia più 2,12, Mediobanca più 1,90, Banco Popolare più 0,40 e la Popolare di Milano più 0,33, come tu ricordavi Unicredito più 0,15%. Dopo il GR, anzi facciamo un commento rapido sulle CIR, meno 4,91%, e le Pirelli meno 4,25 e poi dopo il GR, gli aggiornamenti elettorali, il resto dei titoli. Eleonora, Cire, Pirelli. Guarda, oggi si può dire che non solo in Italia ma in tutta Europa sono stati particolarmente colpiti dalle vendite i titoli che si ritengono più ciclici e quindi appunto la stessa Pirelli, Cire, ma anche ad esempio Parmalat. Parmalat non è ciclico, comunque ci sono i titoli anche in Europa legati ad esempio al comparto delle costruzioni, delle materie prime e via dicendo, che hanno accusato la peggior performance. Il GR, alcuni di voi ci scrivono ancora sui consumi, un altro elemento, giustamente lo dico per inciso, che non abbiamo fatto emergere, che anche comprare l'ortofrutta, ma abbiamo già detto altre volte, di stagione, oltre che far risparmiare, produce anche una qualità migliore, basta con, scrivono molti di voi, la frutta fuori stagione, o se no uno se la pagasse. Un po' più di sobrietà, a mio avviso, fa sempre bene nella vita. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sul tema di approfondimento con cui abbiamo aperto il programma, come cambiano i consumi in momenti di difficoltà economica e quanto resterà di questo cambiamento. Devo dire che l'abbiamo detto più volte, lo dico chi scrive, che c'è un cambiamento dovuto alle difficoltà economiche, nessuno le vuole negare, però poi c'è anche un cambiamento innescato magari dalle difficoltà economiche che porterà mutamenti più di struttura, più di lungo termine, mutamenti culturali. E ci scrivono anche molti operatori di vari settori, penso tour operators, agenzie di viaggio, che hanno a che fare con il turismo, dicendoci guardate che è proprio cambiato anche il modo in cui si prenota, le domande che ci vengono fatte, per cui è difficile, come diceva Giampaolo Fabris, che poi da queste cose si torni indietro, e non è detto che sia un male, ripetiamolo. Eleonora Micheli, concludiamo invece l'approfondimento sulle borse, sui mercati. Alcuni contestano che la definizione che le CIR siano cicliche, sono d'accordo, non sono cicliche, però venivamo da alcuni rialzi consistenti, meno 4,91, Pirelli meno 4,25, Finmeccanica meno 3,70% in borsa, Enel meno 3,6%. Ora su Finmeccanica c'è anche un giudizio non positivo per il gruppo, mentre dall'altro lato vorrei capire perché di Telecom Italia più 2,12%, di Mediobanca invece Unicredit abbiamo già parlato. Telecom da un lato, Finmeccanica dall'altro. Guarda, per quanto riguarda Finmeccanica è vero che c'è il giudizio negativo di Goldman Sachs, che quindi ha dato in là una serie di ordini in vendita, e comunque si può dire che Finmeccanica continua anche a pagare la delusione per il fatto che sia stato bloccato il progetto dell'elicottero presidenziale, anche se notizia di oggi riportata dal Corriere Economia che Alenia Ermacchi, la società appunto del gruppo romano, è in corsa per la fornitura di 500 jet addestratori proprio all'aviazione americana. E per quanto riguarda invece Telecom Italia, va detto innanzitutto che oggi si è risvegliato un po' tutto il settore delle telecomunicazioni in Europa, tant'è che il sottoindice Stoxx 600 europeo ha guadagnato mezzo punto percentuale, andando in controtendenza rispetto ai listini di tutta Europa. Telecom Italia in particolare ha fatto senza dubbio meglio, ha guadagnato 2 punti percentuali, e questo sia perché i vertici del gruppo hanno per l'ennesima volta ribadito i target più volte indicati per fine 2009. Poi va rammentato anche che è iniziato il processo per la cessione del 49% di Sparkle, una società controllata appunto da Telecom Italia. I migliori e i peggiori in assoluto: Rete Elite più 8,6, Stefanel più 8,60, Beghelli più 8,3%, e anche la Roma Calcio, dopo tutte le vicissitudini di carattere finanziario e contabile, più 6,6%. Tra l'altro oggi Italpetrolio ha precisato che non è stata formalizzata né direttamente alcuna offerta da parte di Vinicio Fironelli per la società. Sul fronte opposto invece Seat sul risparmio perde l'11, Pininfarina il 7,80, Elica dopo i rialzi delle ultime sedute cede il 6,7%, Coin meno 5,4%. Grazie Eleonora Micheli. ultima parte di Focus Economia e, come si diceva, che cosa potrebbe cambiare nell'agenda politica dopo il risultato elettorale. Delle priorità, secondo il mondo delle imprese, che la politica dovrebbe porsi nei prossimi mesi, ha parlato oggi la presidente Confindustria Emma Marcegaglia durante e a margine dell'assemblea di Federchimica. La Marcegaglia ha in primo luogo puntato l'indice sul il ritardo di alcune delle misure dal governo annunciate, e che però, misure per le imprese chiaramente, e che però mancano ancora di concretezza. Cioè, l'annuncio c'è stato, ma di molti strumenti a vantaggio delle imprese, l'annuncio c'è stato, ma non l'effetto concreto. Il problema, io direi, di tutti questi strumenti è che noi siamo in crisi da ottobre, oggi siamo a giugno, e di fatto di concreto, non, cioè di cose che le imprese possono sentire realmente sulla propria pelle, nella propria vita aziendale giorno per giorno, non c'è quasi niente. Quindi abbiamo avuto un ritardo eccessivo, cioè la crisi va affrontata subito, gli strumenti vanno affrontati subito, perché se li affrontiamo con troppo ritardo, allora o quelli che non ce la fanno purtroppo non ce la fanno, quelli che ce la fanno a prescindere da tutto. Sempre in tema di priorità, di misure, di agenda politica, la presidente di Confindustria, al termine dell'assemblea, al microfono della nostra Valeria De Rosa. È il fatto che di far sì che i provvedimenti che sono già stati presi, per esempio il fondo di garanzia per le imprese o anche i Tremonti Bond, si traducano in un aumento effettivo dei crediti verso le imprese. Quindi da una parte le banche devono fare di più, dall'altra bisogna fare in modo che questo stanziamento del fondo di garanzia venga fatto e si concretizzi. Quindi c'è bisogno di vedere sulla pelle delle imprese i risultati positivi di queste iniziative che sono già state prese ma che ancora non hanno un impatto, diciamo, sulla vita delle imprese di tutti i giorni. Il peggio probabilmente l'abbiamo alle spalle, ma che per rivedere i livelli di crescita in linea con quelli che abbiamo avuto prima della crisi ci vorranno alcuni anni, quindi abbiamo davanti un percorso complicato e difficile che dovremo affrontare tutti insieme. Quindi l'appello, le azioni che il governo, i provvedimenti che il governo deve tradurre in un aumento effettivo dei crediti, insomma, sostenere il mondo delle imprese, delle piccole e medie, aggiungo io, soprattutto, e soprattutto nel periodo dopo l'estate, quando con ogni probabilità, secondo quello che abbiamo visto, non vi sarà ancora nessun segnale di anche timida ripresa, resteremo con il segno meno davanti, però molte imprese hanno già fatto quello che potevano fare, cioè mandato i dipendenti in vacanza, utilizzato la cassa integrazione, ripulito le scorte, dopodiché uno non è che possa inventarsi qualcos'altro. Va anche detto che la Marcegaglia oggi ha chiesto al governo di riprendere il tema delle grandi riforme di cui tutti parlano ma che nessuno da troppo tempo fa, e anche qui ha sottolineato come sul fronte delle liberalizzazioni si siano fatti dei passi indietro rispetto al decreto Bersani, e ha sottolineato anche l'ingerenza continua delle società partecipate dal pubblico, anche le municipalizzate, che fanno concorrenza sleale e aumentano in maniera ipertrofica il loro peso nell'economia del territorio. Noi abbiamo fatto pochissime liberalizzazioni, abbiamo fatto le privatizzazioni per fare cassa o per come dire, dare pezzi di industria a amici, ma non abbiamo liberalizzato, c'è ancora moltissimo da fare. Una liberalizzazione noi come Confindustria l'abbiamo portata avanti sul settore dell'energia, riformando la borsa elettrica, però c'è ancora moltissimo da fare, c'è da fare energia, nel gas, c'è da fare molto sui servizi pubblici locali, che io condivido, sono diventati veramente l'ambito in cui la politica entra pesantemente nell'economia, aumenta i costi, crea extra tariffe che poi vengono scaricate sulle imprese dei cittadini, ci fa concorrenza sleali e non permette a questi settori, che sono settori che hanno una ampia potenzialità di crescita, di poter crescere. Quindi il tema delle liberalizzazioni è un tema importantissimo, e va detto che questo governo su alcuni punti ha fatto addirittura dei passi indietro. E le liberalizzazioni, le riforme, la riforma delle pensioni, su cui, diciamo, il ministro Tremonti è molto molto freddo, dice che non può essere affrontato in un periodo di crisi come quello attuale, sono alcuni dei temi che restano nell'agenda di politica economica del governo. Dino Pesole, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Federalismo fiscale, ad aprile il Senato ha dato via libera al definitivo, al disegno di federalismo fiscale, e poi dicevo le pensioni, le liberalizzazioni. Questi sono temi che già conosciamo. Potrebbe, oppure anche no, cambiare qualcosa nell'agenda alla luce del risultato elettorale? Ma io credo che se qualcosa cambierà dipenderà dal peso specifico che la Lega riuscirà a far valere all'interno del governo alla luce della nuova affermazione che la Lega ha avuto. Questo è un dato non irrilevante, perché ad esempio se ci riferiamo a alcune delle priorità che la Presidente Marcegaglia ha elencato, ad esempio le pensioni, qui possiamo ben intendere anche e leggere, se vogliamo, con un po' di malizia politica anche la prudenza del Ministro Tremonti, perché come sappiamo la Lega sulle pensioni frena, cioè non ha certamente grande interesse a spingere per una riforma immediata. Sulle liberalizzazioni, ad esempio i servizi pubblici locali, allora ricordo nella scorsa legislatura il governo Prodi aveva provato, c'era stato un disegno di legge messo a punto dall'ex ministro Lanzillotta, che però in quel caso lì venne bloccato dai veti di Rifondazione Comunista. E qualcuno oggi sostiene che si potrebbe a parti rovesciate ripetere la stessa situazione, cioè che a frenare su quel fronte possa essere proprio la Lega. Se così sarà, non c'è da aspettarsi grandi novità sul fronte delle liberalizzazioni. Io invece quello che prevedo è un'accelerazione della pressione politica sul cavallo di battaglia della Lega, il federalismo fiscale. È stato approvato, è vero, però noi sappiamo che la procedura per mettere a punto tutta l'impalcatura del federalismo fiscale è molto complessa, quindi addirittura si parla del 2016 come data di possibile entrata a regime delle norme. È possibile che la Lega, spinga un po' più dal punto di vista politico per un'accelerazione del complesso iter di approvazione del federalismo. Quindi questo potrebbero essere tre fronti di interesse comune per vedere come evolverà il dibattito politico nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Dino Peso, nell'ultima domanda, tu ricordavi chiaramente la Lega ne esce sul fronte del governo vincente, così come Di Pietro ne esce vincente sul fronte dell'opposizione, e quindi tutti i temi leghisti ne escono rinforzati, anche quando si tratta di temi che la Lega non vede con favore. Molti hanno fatto notare però come in questo caso anche Di Pietro, non solo la Lega, si siano avvantaggiati anche di una campagna elettorale in cui hanno cercato di parlare molto della crisi economica, delle imprese, dei lavoratori, del rischio occupazionale. Ecco, potrebbe questo voler dire che al governo verrà chiesto di più, o ci sarà una spinta per dare anche delle risposte, al di là dell'appello che abbiamo appena ascoltato della Marcegaglia? Non è la prima volta che la Presidente chiede interventi concreti, ma insomma che forse si sia parlato un po' troppo di Noemi, va bene, ma un po' troppo poco di Ciputi? Io penso che questo sarà molto probabile. Ritengo che nelle prossime settimane ci sia un'accelerazione. La Lega stessa ha posto anche nella campagna elettorale più volte l'attenzione sul fatto che le risorse stanziate finora sono insufficienti. Ad esempio c'è il problema enorme che segnalava il governatore Draghi della possibilità che 1,6 lavoratori precari, laddove questi precari venissero 1,6 milioni, che laddove questi precari venissero licenziati per loro non ci sarebbe alcuna copertura. Dunque è una partita aperta. Sicuramente ci sarà una richiesta per incrementare lo stanziamento complessivo per gli ammortizzatori sociali, che al momento ammonta, stando alle cifre stanziate, però ancora potenzialmente lì non sono state messe in campo, si tratta di 8 miliardi nel biennio, frutto dell'accordo con le regioni sui fondi sociali europei. È probabile che anche in questo campo ci possa essere una pressione anche da parte della Lega per incrementare i fondi. Quindi io credo che il ministro Tremonti avrà di che occuparsi nelle prossime settimane, dovrà comunque aggiornare in buona parte l'agenda delle priorità del governo e anche appunto trasformare quelle che sono state promesse e obiettivi in soldi e misure spendibili. Grazie a Dino Peso del Sole 24 Ore, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni a voi in ascolto l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. A chi ci scrive al 349-238-6666 sul tema del rapporto tra piccole e medie imprese e banche, stiamo raccogliendo tutte le vostre segnalazioni e poi in modo da avere il massimo degli strumenti, degli elementi possibili. Ci risentiamo domani.